3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata dell'Incredulo dalla vostra ormai quasi apprendista stregona Elisa, che vi guida come ogni settimana in un mondo che va al confine tra la scienza e la magia e che cerca ogni settimana di coinvolgere e di portare dalla sua parte il nostro incredulo Giorgio. Buongiorno Giorgio. Elisa, Elisa, ma che ci stiamo a raccontare? Noi qui facciamo solo la scienza, quella con la S maiuscola, quella dei camici bianchi, quella dei quegli strumenti strani che i dottori o gli scienziati usano. In particolare, qui da noi c'è una rigida regola, e cioè ci atteniamo solo agli strettissimi libri di scienza. Io quando vado al gabinetto leggo solo il New England Medical Journal. Però effettivamente, insomma, i dottori, gli scienziatoni non sempre hanno ragione, anzi, spesso incappano in clamorosi errori. Per di più, viviamo in tempi dove la potenza di calcolo è amplissima e si dice che rispetto all'Ottocento, quando la conoscenza umana raddoppiava più o meno nell'arco di 100 anni, oggi addirittura nel giro di settimane siamo già al doppio delle nozioni che avevamo prima. Questo significa che praticamente diventa obsoleto qualsiasi verità nel giro di qualche settimana e in particolare si scoprono collegamenti sempre nuovi con quelle arti che un tempo erano definite magia. Pertanto vale la pena stare ad ascoltare quello che chi viene dalla scienza con la S maiuscola, chi viene addirittura da una famiglia di scienziati e che però ha deciso di esplorare anche l'altra faccia della luna, che è Elisa. Naturalmente Elisa oggi ci parlerà di un tema molto dibattuto sulle riviste scientifiche più accreditate. Parleremo di la legge di attrazione. Tutta questa lunga presentazione. No, cercavo la legge di attrazione. Elisa, ma che roba è? Quando uno passa con la macchina dall'autovelox attrae la multa, ma dai. Più o meno sì, nel senso che se pensi di voler attrarre una multa, molto probabilmente la attrarrai. La legge di attrazione. La legge di attrazione è un tema sì dibattuto, ma non sulle riviste scientifiche, e è di particolare interesse e di particolare attualità, dato che più di una persona si rende conto che il mondo a caso pone, come faceva Demostenes secondo Dante, in realtà è molto meno casuale di quello che sembra, e anzi, certe situazioni sembrano proprio tagliate addosso per delle persone. Allora, per noi che non ne sappiamo nulla, per noi l'unica legge di attrazione è quella di Newton che fa cadere la mela a terra. La legge d'attrazione, Elisa, che cos'è? La legge di attrazione si basa su un concetto di cui noi abbiamo già ampiamente parlato. La legge di attrazione, infatti, si basa sull'energia, quindi tutto quello che noi abbiamo intorno, materia o non materia, è composto di energia. I pensieri stessi sono composti di energia. Quindi quello che sta a dimostrare questa legge è che se noi ci domandiamo qualcosa e la domandiamo quindi all'universo, questa ci risponderà facendoci arrivare questa cosa. Detto così, sembrerebbe che se io penso di vincere alla lotteria, e lo penso tutti i giorni, vincerò la lotteria, ma non è così semplice. Fosse Comunque, così facile. noi attiriamo tutto ciò che è a noi simile, ma simile nell'inconscio. Quindi è una cosa abbastanza sottile e difficile da capire. attiriamo verso di noi quello che ha la nostra stessa vibrazione. Quindi se il nostro inconscio, se noi pensiamo di vincere alla lotteria e ci pensiamo veramente tanto, però il nostro inconscio dice tanto non vincerò nemmeno questa volta, vince il nostro inconscio che ci dice che non vinceremo nemmeno questa volta. E inoltre noi attiriamo non solo quello che noi speriamo, ma anche quello che sono le nostre paure più recondite, no? Te mi dicevi della multa. La legge, no? Dice, speriamo di non prendere una multa. Quello che invece il tuo inconscio legge è vedrai che prendo la multa, perché poi il pensiero non legge il negativo, quindi è speriamo di prendere una multa. Pensate. E magicamente cosa succede? Parcheggi la macchina, dici, fattore C, non prenderò la multa, e invece la prendi. Allora, Elisa, spiegami, per esempio... o chiariscimi questo episodio che avvenne a un'amica mia qualche tempo fa. Era stata in America, era venuta in contatto con la legge dell'attrazione e in particolare, da come parlava, dal bestseller che tratta di legge dell'attrazione, ma insomma la tratta in maniera molto americana, che è Il Segreto, The Secret, e insomma lei cominciava a parlare ad alta voce, a fare le richieste all'universo ad alta voce. Una sera si mise lì e disse, si vedeva che tentava di far succedere le cose, a me mi serve uno stipendio più alto perché io mi merito uno stipendio più alto, insomma una cosa del genere. Fatto sta, lei faceva le supplenze a scuola, aveva avuto fino ad allora la supplenza annuale praticamente sotto casa, e qualche settimana dopo, quando dettero le nuove supplenze, dopo che lei aveva detto questa cosa, gli dettero una supplenza di pochissime ore e in un posto proprio sperduto della provincia. Perché è avvenuto questo, stando alla legge dell'attrazione? Perché The Secret è tanto bello, però non ti racconta tante cose, nel senso che non è così facile. E che fanno dico a te per 10 euro. Non è così facile lavorare sulla legge dell'attrazione, perché come ti dicevo, si attrae quello che noi vogliamo, però attrae quello che è in vibrazione con te, quindi molto probabilmente il suo pensiero inconscio non era così in linea con quello che lei sperava, o comunque aveva delle paure appunto che le dessero poche ore di supplenza. Lavora anche tanto sulle nostre memorie, ricordi, ma anche memorie karmiche, no? Quindi sì, quello che è successo in un passato, anche a noi non conscio, dei nostri parenti, delle altre vite, di altre persone a noi collegate, possono influire tanto la legge dell'attrazione, e no, anche e soprattutto, oltre alle paure, i traumi che noi abbiamo subito. Quindi per riuscire a attirare veramente qualcosa di che noi vogliamo, bisogna essere molto molto molto connessi con il nostro io più interiore, perché altrimenti non funziona, perché altrimenti si sarebbe tutti milionari, perché altrimenti forse The Secret non avrebbe nemmeno avuto il senso di essere scritto. Comprendo. E quindi gioca su quello che noi attraiamo, che siano eventi, circostanze, situazioni, ma anche probabilmente cose materiali. Oddio, la multa è una cosa materiale, ma viene da una circostanza. Fatto sta, il karma che ci portiamo dietro, come lo chiama qualcuno, il tikkun come lo chiama qualcun altro, e tutto il resto, le costellazioni familiari, i complessi freudiani, i sogni di mandala di Jung, fatto sta che tutto questo contribuisce a attrarre quello che noi per il momento abbiamo intorno nella nostra vita. Esatto, e soprattutto le vibrazioni di ciò che ti preoccupa e che di ciò che tu hai paura sono molto più forti, non a livello vibrazionale, ma a livello tuo inconscio, di ciò che ti ami. Quindi noi esseri umani teniamo più in considerazione ciò che temiamo e di cui abbiamo paura rispetto a ciò che amiamo. come si dice sempre, no? Verrai boccia all'esame. Me lo sentivo, perché? Perché comunque la paura di bocciare è più forte di dire ma che cavolo, io ce la farò. No, te pensi sempre a bocciare, oppure nella nostra mente umana fallire è più forte di vincere. Ah, interessante. Ma se è una questione di io profondo, ma se è una questione animica, se è una questione sottile, come si fa a cambiare, a riprogrammare l'io profondo tale che non provi più le paure che poi si concretizzano e allo stesso tempo provi sentimenti o comunque si riprogrammi in modo da far sì che ciò che attraiamo sia qualcosa che ci dà felicità piuttosto che ci dia amarezza? Per prima cosa, secondo me, è importante fare un lavoro su noi stessi, cioè cercare veramente di essere il più uniti possibile a livello di conscio e di inconscio e di subconscio, quindi cercare di togliersi tanto di quello che uno ha addosso, quindi condizionamenti familiari, della società, dei traumi passati, paure, lavorando tanto su innalzare quindi il nostro stato d'animo a un livello più positivo e lasciare andare tutto quello che ci appartiene ma non del tutto, oppure non ci appartiene più, quindi vivere nella paura di qualcosa è qualcosa che è successo nel passato, no? Sì. E non in questo momento non è detto che succederà, oppure aver paura di qualcosa perché è successo a tua mamma, a tua nonna, ora parlo di magari cose abbastanza femminili, ne so, gravidanza è andata male, tu non riesci a rimanere incinta perché in te è più forte la paura di quello che loro hanno sofferto. È un lavoro forte che tutti noi prima o poi dobbiamo fare, quindi lasciarsi andare quello che non siamo veramente noi. Una volta che siamo noi, quindi in tutto e per tutto, e non è detto che lo saremo mai in tutto e per tutto, perché c'è, vivendo in società non siamo eremiti e qualcosa ci condiziona sempre nella vita, però cercando di essere il più possibile noi stessi, allora in quel momento ognuno di noi può desiderare di attrarre cose positive e far sì che arrivino nella sua vita, tenendo sempre presente che la legge di attrazione lavora sul presente e sul positivo. Quindi non ce la farò non va bene, ma devi dire ce la faccio. D'accordo. E che tipo di situazioni o di persone o di oggetti si attraggono al momento in cui si rimette un po' a posto l'io interiore? Faccio un esempio: il genio della lampada di Aladino, in molte versioni, forse non in quella originale, però in molte versioni americane, ve le so, occultisti, gli facevano dire che non era in grado, per esempio, di attrarre le persone e, nel caso specifico, l'amore e la fidanzata. Quindi, secondo il mito moderno, come lo chiama Malanga, si attrae non di tutto, perlomeno ci fanno credere questo. Secondo te, con la legge di attrazione, il single è in grado di attrarre una o un partner? Sì, attrae un partner che ha lo stesso suo livello vibrazionale. Quindi, esempio tipico di chi magari non ha ancora fatto un bel lavoro su se stesso è le persone che ti dicono: mi capita sempre di trovare lo stesso tipo di uomo barra donna. Ah, sì, è vero, ne conosco. Quindi io non sono in grado di attrarre appunto persone diverse da queste. Quindi magari passano da una relazione all'altra dopo pochi tempi e stanno sempre con lo stesso tipologia di uomo. Pensa, magari scontente. Un noto personaggio televisivo qui del Valdarno, donna, lei ha divorziato da un uomo che aveva un nome e un cognome e si è sposata con un altro uomo che aveva lo stesso nome e cognome. Il caso non caso, ti direi io. Vabbè, sì, la televisione. Però sì, nel senso che se te desideri veramente l'amore, puoi trovarlo, però non è detto che sia quello che te realmente vuoi. Perché potresti comunque ricascare sempre nel solito circolo vizioso e quindi riattrarre la stessa tipologia di persone. Magari non è dell'amore che tu hai bisogno in quel momento, però non sai come altro soddisfare il tuo bisogno di compagnia, di felicità, se non in una relazione, sai. L'universo ti dà quello che te chiedi, però bisognerebbe tanto investigare su quello che te realmente vuoi. Non è facile, non è assolutamente facile. Credo che, insomma, The Secret la metta lì come se fosse veramente la scoperta dell'acqua calda. Però lavorare su di noi e su cosa vogliamo attrarre è tanto tanto difficile. Ora non mi credo questa persona così illuminata, però a volte dico, vedi, sono stata io di nuovo che ho attirato questa cavolata nella mia vita perché non ho lavorato su quello che pensavo veramente. D'accordo, d'accordo. E Elisa, su Teleregione negli anni 80 i maghi pubblicizzavano il fatto che non solo loro fossero in grado di attrarre amore o di attrarlo per il loro cliente purché pagasse un sacco di soldi, ma anche parlavano di soldi, chiaramente ai poveri non gli leggevano le carte o non gli vendevano gli amuleti. Il denaro e la condizione economica di una persona, e oi, più siamo in mutande, dipende anche questa dalla legge dell'attrazione. Attraverso la legge dell'attrazione si è capaci di attrarre, che ne so, uno stipendio, una vincita, un'eredità? Si può attrarre di essere ricchi, quello assolutamente sì. Poi che tipo di ricchezza si arriva dall'universo dipende di nuovo da te. Sicuramente sì, nel senso, puoi chiedere se hai bisogno di soldi, ho bisogno di trovare questi soldi per poter comprarmi, che cavolo ne so, una macchina nuova perché la mia si è rotta. Certo, non chiedetegli cose del tutto inimmaginabili. Uno può anche chiedergli, voglio svegliarmi domani e essere in una villa a Miami multimilionario. Però ecco, secondo me se sono mosse da qualcosa che ci appartiene veramente, allora sì, è possibile. Comprendo. E un'altra cosa che i maghi promettevano era la salute, e di salute noi ce ne siamo occupati almeno fino a qui. Però abbiamo nel corso delle puntate parlato di trattamenti che aiutano a lavorare sulle ansie, sulle paure, sulle fobie, e questo tipo di elementi, ci hai spiegato, influenzano tantissimo il risultato della legge dell'attrazione. Quindi i fiori australiani, i fiori di Bacchi, i fiori malaiani, i fiori della marijuana, la dopamina, la psilocibina, non lo so, i chakra e tutto questo, lavorando attraverso per esempio i fiori di Bach, cambia anche la legge dell'attrazione? Sicuramente può cambiare il tuo modo di essere, nel senso che se sei una persona molto insicura e molto scoraggiata, se trovi il coraggio e la sicurezza, di certo non dirai più non voglio prendere la multa perché ho paura, dirai sicuramente parcheggio qui e non passeranno, e no, non passeranno i vigili, no, sicuramente parcheggerà qui e andrà tutto bene. Ricordiamoci sempre che il non viene letto dal cervello e dall'universo. Se sei più in equilibrio con te stesso e con il tuo vero io, la legge di attrazione funziona meglio. Sulle malattie ricordiamoci tanto che, per quanto io sia convinta che la guarigione parte da noi stessi, quindi dal nostro pensiero positivo, non pensate di guarire un tumore con la legge di attrazione, ecco. D'accordo, quei casi che talvolta finiscono sul giornale, finiscono sul giornale e sono appositamente e un po' fraudolentemente gonfiati, però sì, ci sono persone che ritengono attraverso questa o altre leggi di natura più spirituale di poter riuscire a operare sul mondo reale e in particolare sul loro corpo. Probabilmente è fattibile, qualcuno dice che lo sia, ma servono i grandi maestri zen o i grandi guru o i grandi cabalisti, gli tzadikim o chi per loro, insomma. Il tema che hai sollevato in questa puntata è un tema particolarmente scottante, probabilmente di domande da parte del pubblico ce ne saranno più di una, quindi ritorneremo sull'argomento prossimamente, perché l'agenda di argomenti, grazie a Dio, per ora è ricca. Al momento ti ringraziamo, e che facciamo? Ringraziamo l'universo perché ti abbiamo attratto a Radio Big World? Perché no? Alla fine noi ci siamo conosciuti per fortuna. È stata una bella conoscenza. D'accordo. Caso non è una parola kosher, direbbe un rabbino. Pertanto ringraziamo Elisa naturalmente della sua disponibilità, del suo stare allo scherzo e del suo non farsi distrarre da uno strullo come me per riuscire a comunicare un messaggio che è un messaggio, il Papa direbbe, quasi di speranza, insomma. Beh, ora paragonarmi al Papa mi sembra un po' troppo forte, però insomma sicuramente è un uomo più divino di me per tanti aspetti, sicuramente prega più di me, però sono contenta di questo paragone un po' mistico. Grazie a te Giorgio e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, e sarò lieta di rispondere a tutte le vostre domande magari in una puntata futura. Olè!